in primo piano. Nell'economia, la finanza mondiale con il G20 a Pittsburgh e poi l'Assemblea Generale dell'ONU, i temi insomma di politica internazionale che oggi dominano le prime pagine dei giornali. Vediamo subito alcuni dei titoli più significativi. Il Sole 24 Ore, per la verità, parte dall'Italia, misure anticrisi per il 2010, poi lo vedremo, interessante, allo studio un decreto con una dote di 5 miliardi per detassare i contratti di secondo livello e le famiglie. Ma poi a centro pagina proprio il G20, Merkel al G20, dobbiamo riscrivere le regole finanziarie. Anche il Corriere della Sera parte dall'Italia, diciamo, fisco stretta sui beni all'estero, arrivano in Italia le prime liste. La Repubblica, l'ONU, mondo senza atomiche. E così anche la Stampa, ONU stop alle armi nucleari. Nuove regole, accordo più vicino invece è l'apertura del Messaggero. Devo dire che voglio partire proprio dalla finanza, da alcuni commenti, e parto dal Sole 24 Ore, si è aperto ieri il G20 a Pittsburgh appunto, tanti temi. In agenda c'è un intervento interessante sul Sole 24 Ore del presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick. Non c'è ripresa senza i poveri. Questo è il titolo dell'intervento. Il vertice del G20 a Londra attutito la caduta. A Pittsburgh, scrive Zoellick, i leader del pianeta dovranno andare oltre, gettando le fondamenta di una nuova normalità di crescita e globalizzazione responsabile. Come prima cosa devono riconoscere i leader che i paesi in via di sviluppo sono un elemento chiave della soluzione. Le previsioni indicano crescita stagnante e disoccupazione alta per diversi anni. I consumatori americani non possono più essere il motore della domanda. Poi altri consigli. Come seconda cosa, dice Zoellick, i leader dovrebbero mettere l'accento sul fatto che un'economia globale bilanciata e inclusiva necessita di molteplici poli di crescita. E ancora, come terza cosa, i leader possono impegnarsi a rendere la crescita sostenibile. I paesi in via di sviluppo non solo subiranno il 75-80% dei danni potenziali dei cambiamenti climatici, ma oggi hanno 1,6 miliardi di persone senza accesso all'energia elettrica. Infine, come quarta cosa, i leader devono mettere in campo meccanismi per proteggere i più deboli. Un punto di partenza sarebbe dar seguito alla nuova iniziativa da 20 miliardi di dollari per la sicurezza alimentare lanciata al G8 dell'Aquila. Questo in sintesi, insomma, l'intervento così riassunto, non c'è ripresa appunto senza i poveri, per Robert Zoellick, il presidente della Banca Mondiale. Dicevamo, sono tanti i temi di discussione in agenda, il Corriere della Sera li riepiloga a pagina 3. E c'è anche la questione sulla discussione degli stipendi dei banchieri, che è uno dei temi sui quali non c'è accordo. Scrive il Corriere della Sera, riferendo all'intervento del presidente del Consiglio Berlusconi, il Premier lotta alla speculazione, è più importante del tetto ai bonus. La lotta alla speculazione finanziaria prima di tutto, con l'auspicio che appare fondato che nella dichiarazione finale del vertice il punto sia menzionato attraverso un accordo condiviso e quanto più possibile stringente. Questo dunque sarebbe la linea dell'Italia, la lotta più alla speculazione più del tetto ai bonus. Sul tetto ai bonus ai banchieri c'è la divisione che sempre il Corriere mette in evidenza. Sulla necessità di mettere un tetto ai superstipendi dei manager bancari insiste il presidente francese Sarkozy, appoggiato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. È contrario invece il premier britannico Gordon Brown, che pure si dichiara favorevole a norme di regolamentazione delle retribuzioni, mentre gli Stati Uniti si defilano. Toccherà dunque al G20 di Pittsburgh decidere come procedere. Dicevamo che ovviamente l'attualità è anche quella di quello che sta succedendo all'ONU in questi giorni. Per esempio questa risoluzione che il Corriere della Sera non esita a definire storica. Risoluzione storica all'ONU, abbiamo visto che è l'apertura sia di Repubblica che della Stampa. Un mondo senza atomiche. La seduta, tra l'altro, del Consiglio di Sicurezza è stata per la prima volta guidata dal presidente Obama in persona. È stato approvato un testo, la risoluzione 1887, sul disarmo nucleare. Approvata all'unanimità, indica come obiettivo l'eliminazione delle armi nucleari dal pianeta e chiede una moratoria ai paesi firmatari del trattato di non proliferazione nucleare. Tutto questo mentre c'è un resoconto, ampi resoconti sui giornali, anche come abbiamo sentito in GR24, di questo sventato attacco al metrò di New York. Così titola Repubblica, per esempio, a pagina 4, New York, sventato un attacco al metro, smantellata una cellula di afghani legati ad Al-Qaeda. Tra l'altro sarebbe stato trovato anche un video con l'obiettivo dei terroristi, proprio l'allarme nei giorni del vertice dell'ONU. Un presunto attentatore che si era addestrato l'anno scorso nei campi in Pakistan, il ministro della giustizia Eric Holder ha detto è un complotto vero, un pericolo imminente che per adesso è sventato. Molti gli indizi per le indagini, ma i cittadini devono rimanere vigili su attività sospette. E l'altro tema invece è la presenza di Ahmadinejad, che sapete non ha risparmiato, non si è risparmiato anche in questa occasione duri attacchi a Israele. Molti dei delegati presenti si sono alzati in quel momento e se ne sono andati. C'è Ahmadinejad, New York si tinge di verde, questa è pagina 3 della Stampa, dunque la protesta di coloro che contestano le elezioni, elezioni che Ahmadinejad ha definito regolare al 100%, si è spostata a New York, fuori proprio al Palazzo di Vetro, per l'accoglienza ad Ahmadinejad. In questo reportage Francesco Semprini dice il diavolo, ovviamente sarebbe Ahmadinejad nella grande mela. Ci sono le dichiarazioni ovviamente di Ahmadinejad messe in risalto come questa: l'Occidente ipocrita predica la democrazia, poi ne viola i principi fondamentali, tutto detto all'ONU, eh? E poi una piccola minoranza, in questo caso si riferisce agli israeliani, domina l'economia, la politica, la cultura di tutto il pianeta, e la mia elezione un episodio glorioso. E questa dunque è la protesta fuori da Palazzo di Vetro. Venendo all'Italia, dicevamo, l'apertura del Sole 24 Ore è sulle misure anticrisi per il 2010. All'interno Dino Pesolo e Marco Rogari esaminano quello che è allo studio, una fase 2 da 5-7 miliardi. Dopo la finanziaria un decreto con detassazione del secondo livello e piano casa. Che cosa allo studio? Le ipotesi allo studio sono... le nuove social card, si punta ad allargare la fascia di chi potrà ottenere la carta acquisti, 40 euro al mese, un'estensione che riguarderà famiglie con un reddito annuo inferiore ai 6.000 euro con figli sotto i 6 anni, attualmente era sotto i 3 anni. Poi gli sgravi sul salario variabile, il ministro del lavoro ha confermato questo impegno per la proroga dell'aliquota secca al 10% sui premi di produttività, infine il rinnovo dei contratti pubblici, un impegno fissato in finanziaria, quello di reperire le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti agli statali per il triennio 2010-2012. Queste le ipotesi allo studio del governo, anche se fa ancora discutere la vicenda dello scudo fiscale, dicevo l'apertura anche del Corriere della Sera sul fisco, fisco stretta sui beni all'estero, arrivano in Italia le prime liste, ed è poi quello che si legge all'interno in Corriere Economia, con anche un'interessante intervista a Salvo Fleres. Chi è Salvo Fleres? L'avete sentito anche da noi a Radio 24, è il senatore che ha firmato l'emendamento di allargamento al falso in bilancio dello scudo fiscale. Fabrizio Roncone, che è uno dei più arguti intervistatori dei politici italiani, intervista Fleres. La colpa è tutta mia, esordisce così Fleres. Sono i miei modi di fare riservati, sommessi a fregarmi. Dovrei urlare per essere un politico famoso, rispettato e credibile. E poi ancora più avanti un profilo, ma lei ha fatto il giornalista, sono redattore capo del Parco dell'Etna. Il Parco ha un giornale, no, un ufficio stampa, io sono in aspettativa. E poi dirige una radio, Radio Vulcano, me la cavo con lo sport, sono cintura nera di karate ad honorem. E poi insomma gli hanno detto, ma lei di finanza se ne intende poco, guardi che io ho fatto per 15 anni il componente della commissione finanza e bilancio. Vabbè, però al Senato, chiede Roncone, vuol dire che sono uno sconosciuto? L'ha detto lei. Va bene, sono uno sconosciuto a cui è venuta un'idea, l'ho scritta e per scriverla naturalmente mi sono fatto aiutare da Tremonti, diciamo da amici e colleghi, dai tecnici di Berlusconi, da gente esperta. Si conclude così l'intervista a Salvo Fleres. Sullo scudo c'è anche un'intervista sull'Unità molto critica, l'intervista è a Umberto Ambrosoli. Umberto Ambrosoli chi è? È il figlio di Giorgio Ambrosoli, l'avvocato che fu ucciso, l'eroe borghese, che dice lo scudo non è la legalità per cui morì mio padre. È una norma miope, un messaggio sbagliato. Per lo Stato è più importante fare cassa che perseguire determinati crimini. Una lunga intervista a Yolanda Bufalini di Umberto Ambrosoli, il figlio di Giorgio Ambrosoli, che critica dunque lo scudo fiscale. C'è poi, per lasciare diciamo l'economia, la finanza, e venire a temi più di cronaca, anche di stretta politica, definiamolo così perché ha assunto un carattere politica, c'è tutta la vicenda Travaglio. Ieri è iniziato anno zero, finalmente, e ne sono pieni i giornali. Ne sono pieni i giornali, ancora delle resoconti della prima puntata, era inevitabile. C'è anche un commento sferzante di Aldo Grasso in prima pagina del Corriere. Anno zero, in scena il venditore di libertà. Per noi importante è il racconto della realtà, dice Santoro in apertura di trasmissione, ma c'è tempo. Per intanto la realtà è lui, solo lui. Silvio Berlusconi sostiene che molti giornalisti italiani sono farabutti. Brunetta aumenta il carico, ci mette anche gli intellettuali, notoriamente fannulloni. Non stanno parlando solo di Santoro, ma è come se. Che in Italia in questo momento l'informazione non se la passi troppo per bene. Troppo bene è un fatto, dice Aldo Grasso, ma paragonarsi a San Lorenzo Martire, come ha fatto Santoro approfittando di un discorso del Cardinal Bagnasco, pare un filo esagerato. E poi Aldo Grasso dice, finalmente arriva Travaglio, pensaci tu, e ci spiega chi è Giampi Tarantini, il famoso fornitore ufficiale di escort e indagato dell'inchiesta sulla sanità in Puglia. Lo fa per missione, perché nessun organo di informazione se n'è finora occupato. Santoro spiega anche che nessuno in Italia ha ancora intervistato Patrizia D'Addario. Insomma, la libertà di stampa è cosa loro. Ci sono problemi seri, conclude Aldo Grasso, che rischiano di perdere credibilità perché qualcuno si prende troppo sul serio. Fastidioso venditore ambulante della libertà. C'è un'intervista a Lucia Annunziata sul Riformista, un'intera pagina su Michele Santoro, ci sono è l'apertura del giornale di Libero. Il giornale Libero fanno il titolo di prima pagina su Anno Zero. Anno Zero è come un manicomio, questo è il giornale. Un escort salva Santoro, questa è l'apertura di Libero. Anno Zero sexy. Ci occupiamo di altro dopo il traffico. In primo piano. Sul fronte politico giudiziario continua a battere Il Fatto Quotidiano, il giornale nuovo di Padellaro e Travaglio per l'appunto. Oggi il titolo è Indagato pure Alfano, rievoca l'indagato Letta del primo giorno. Abuso d'ufficio, si legge all'interno un servizio di Antonio Massari. Con questa ipotesi di reato il ministro della giustizia Alfano, il ministro per i rapporti con le regioni Fitto, sono stati iscritti nel registro degli indagati alla Procura di Roma. Gli atti sono in mano al Tribunale dei Ministri, che nelle prossime settimane valuterà se archiviare oppure procedere. Alfano decide il Tribunale dei Ministri. Questo è l'articolo all'interno. Dicevamo di quello che è il nostro sondaggio di oggi, che voglio ricordare. Il Tribunale di Lecce, il TAR della Puglia, ha deciso di sciogliere entro 30 giorni la provincia di Taranto se la provincia di Taranto non si adegua a che cosa. Hanno fatto una giunta tutta al maschile, nessuna donna. E dunque questo non va bene. Ne è pieno davvero i giornali. Un'intera pagina sul Sole 24 Ore, il TAR azzera la giunta senza donne con interviste, ma anche il TAR azzera la giunta senza donne, titolo uguale, sul Corriere della Sera pagina 17, interviste a Lidia Ravera, che di donne ha molto scritto e riflettuto. La cosa si commenta da sé, dice, la misura punitiva per la giunta di Taranto va bene, per carità, ma poi non si può cascare dal pero. Andiamo alle cause per cui le donne non sono in politica, cioè alcune sono ovvie: la politica è una casta pietrificata, le attira poco, ma spesso sono loro che si autoescludono. Emma Bonino invece dice, se servisse a smuovere le acque questa decisione magari, ma la si butterà in politica. La questione delle donne tornerà presto nell'assordante silenzio in cui è stata finora. E le si chiede, insomma, ma le quote? Lei è sempre stata contro le quote, Emma Bonino. Risponde così, le quote? Non siamo mica in Afghanistan, siamo in Italia. Certo, con l'eccezione dei radicali, che sono quasi un matriarcato, la situazione delle donne in Italia è patetica. Il ministro Mara Carfagna ne parla in un'intervista al Quotidiano Nazionale, a pagina 3. Dice, più che di maschilismo parlerei di scarsa attenzione alla rappresentanza delle donne. Serve la magistratura, dunque? Assolutamente no. E comunque Mara Carfagna dice, non mi piace l'idea delle quote, che le donne vengano racchiuse in recinti di diritti preconfezionati. o stabilire quote o proporzioni in base al sesso. Certo, però, un politico, sebbene uomo, non può non considerare che metà dei suoi elettori sono donne, con loro problemi specifici. Dunque, questo è il tema che tratteremo dalle 8.30 alle 9. Potete già votare su radio24.it o il sole24ore.com. Che ne pensate? Ha fatto bene il TAR a sciogliere una giunta provinciale? Perché non ci sono donne. Veniamo a alcune segnalazioni di altro che ci hanno un po' mi hanno un po' incuriosito. Beh, una è questa, è quella, la vicenda di Claudio Amori. Forse seguite o forse no X Factor, questo programma che in passato ha avuto molto successo. Che è successo a X Factor? Per così gli autori, per forse prendere in giro, per fare una cosa simpatica, hanno fatto vedere a Claudio Amori come era 30 anni fa. Hanno messo a confronto Claudio Amori 30 anni fa e Claudio Amori oggi. Beh, pensavano forse di suscitare ilarità. Claudio Amori si è offesa, è diventata furiosa e ha minacciato di andarsene. E oggi parla Repubblica. Claudio Amori, questa TV è volgare e offende le donne. Quello che hanno fatto è una cosa sgradevole, maleducata, brutta. Per chi l'ha pensata doveva essere divertente, si aspettavano da me una reazione ridanciana, ma considero quello che è accaduto una cosa molto grave per le donne in generale. E dice in questa intervista a Ernesto Assante: dietro questi gesti televisivi c'è del razzismo, una cultura della selezione delle donne che devono avere sempre 20 anni, devono passare dal chirurgo plastico, non devono avere le rughe, le labbra, devono sempre essere gonfie, gli zigomi pronunciati, devi avere il sedere in un modo, vestirti in un altro. Se arrivi a 60 anni e vuoi fare televisione devi accettare i meccanismi del gioco, se no ti faccio vedere come eri e come sei. È assurdo, a un uomo non lo farebbero mai. E vi dedica a questo tema anche l'apertura il buongiorno Massimo Gramellini. Memento Mori. Si chiede Gramellini: è ironia mostrare la tua faccia di 30 anni prima a milioni di persone per far vedere quanto sei invecchiata? Chi va in TV per il solo fatto di andarci deve accettare di scadere a zirimbello? Il buongiorno è più ampio, ma insomma il concetto è questo di Gramellini, a dire è stato davvero un colpo basso, solidarizza con Claudio Amori che ha avuto questa reazione molto molto arrabbiata. Per concludere vi voglio segnalare che è pieno di resoconti del ritorno di Giorgio Armani, ritorno sulle scene. Gianluigi Paracchini scrive, secondo me, l'articolo più interessante. La salute va molto meglio. Vendere il suo impero? Non se ne parla proprio. Che morale trarre dalla malattia? Che la vita è una sola, lo stress ti può rovinare, che bisogna essere più buoni e a fine malattia non voglio tornare a essere aggressivo e sgarbato. Parla Armani e si confessa dopo la pesante epatite che lo aveva piegato e che ora sta regredendo. Lo scorso giugno, scrive Paracchini, era apparso durante le collezioni di una magrezza impressionante, fragile, con appena un filo di voce. Ora qualche chilo recuperato, colorito ottimo, di nuovo la sua voce e Armani che dice: la malattia mi ha cambiato, la svolta di Armani che dice comunque: non ci penso nemmeno minimamente a vendere il mio impero. Era l'ultima segnalazione per quel che riguarda la rassegna stampa. Ci sono ancora tanti articoli, ma insomma il tempo è quello che è, e poi leggete i giornali, che è sempre un piacere. Ricordo il sondaggio è quello del TAR del Puglia, che ha deciso di sospendere la provincia di Taranto perché non ci sono donne scelte nell'esecutivo. Ne parleremo alle 8.30, potete già telefonare per prenotare il vostro intervento all'800 24 00 24. A dopo.